Sono come un orso malinconico se mi s'abbassa la naturale percezione di vomito. Mica mitigo, litigo, sto sul listone col listino a fare politico. Shock, shock. Shock. Chi gioca l'assessore c'ha per sé l'erba più verde a noi. Poco importa, abbiamo erba stupefacente. Se poi diamo retta a chi c'ha l'aria competente, ci dice che bonifica per fare erba mutante. Con quel che di chimico ha portato Karen, qua fe acqua, aria tra siluri e zanzare. Sta come te dentro un limbo a galleggiare, con la forma della polvere però più sottile. Qua non la vedi e non la senti, la inali e la prendi tra gli attuali argomenti in terra d'este. Ma mia gnos la letra Pascal, piaccia pendi pacchinti il bal, il volim porum quel calfa mal. Ma la moral, tal sale sempre quella, i politic fa merenda coi baio glera, e chiaccia ben tutti il colera, e poi finis tutti in galera. Turbo gas, la fada spulgras, e chi afrara, agna ben bella sa, i safat, fanta di filtar, ma se sen, di aspira polver. Turbo gas, la fada spulgras, e chi afrara, agna ben bella sa, i safat, fanta di filtar. Massa sen di aspira polver. Le brisa ne parole sutila, le polver bianca classe squaglia brisa. Ma le gratis stanno la paghimina, ma date ancora di quando la contamina. La scopita in polmon come una mina. Sa si impegna tutta sta polvra, la purtain a cada al sindac, che la venda tutta la giunta, che poi verti fa la cresta. E noi siamo qui per ruinar la festa. Turbo gas, la fada spulgras, e chi afrara, agna ben bella sa, i safat, fanta di filtar, massa sen, di aspira polver. Turbo gas, la fada spulgras, e chi afrara, agna ben bella sa, i safat, fanta di filtar, massa sen, di aspira polver. Turbo gas, turbo gas, turbo gas, trapesa frara. Ma che grande para, adesso tocca andare dove non c'è il tumore che ormai ci sta uccidendo. E dimmi dove sto andando, come sto strippando, la mia testa sta seguendo uno strano tango. Passo da quelle parti via Marconi, solo per pochi secondi e c'ho già gli sparioni. Mi sembra di vedere questa città che cade a pezzi, specialmente quei quartierazzi dove la gente non si diverte come dei pazzi. Pure se sono uguali a noi, le polveri sottili, ti ripeto, danno la testa come una strana sostanza.